Le 13. GR24, il sole 24 ore. Venerdì funerali di Stato per le vittime del terremoto, si scaverà tra le macerie fino a Pasqua, almeno 250 i morti, quasi 12.000 i feriti. Sicurezza, governo battuto sulle espulsioni e le ronde escono dal decreto. Frattini, l'occupazione del Golan da parte di Israele è un ostacolo alla pace, dice. Calcio stasera, Liverpool-Chelsea, il derby d'Inghilterra. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Raffaella Calandra. In apertura andiamo subito all'Aquila per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei soccorsi dopo il terremoto. In diretta il nostro inviato Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, si continua a scavare nel centro storico dell'Aquila, lo si fa con tutti i mezzi, la speranza è che si possa ripetere il miracolo di ieri sera quando dopo 42 ore dal sisma è stata estratta viva Eleonora, una ragazza di 20 anni di Rimini. Si scaverà fino a Pasqua, intanto ha fatto sapere il ministro dell'interno Maroni. Il bilancio del sisma, 251 i morti, di cui 10 ancora da identificare, oltre 1500 i feriti, bilancio che tra breve potrebbe essere aggiornato nel consueto appuntamento stampa qui all'Aquila del Presidente del Consiglio Berlusconi. Il Premier a seguire farà visita al centro storico dell'Aquila per rendersi conto della distruzione o di quanto rimane del patrimonio artistico. Ricordo che domani ci sarà la visita del Presidente della Repubblica Napolitano, venerdì alle 11 i funerali delle vittime. In mattinata è arrivato anche il leader del Partito Democratico Franceschini, che ha sottolineato l'efficienza della macchina dei soccorsi. Nella notte è stato invece evacuato il supercarcere dell'Aquila, che ospita 80 detenuti sottoposti al regime del 41 bis e 55 detenuti comuni. Lo abbiamo fatto per motivi precauzionali, ha spiegato il ministro della giustizia Alfano. In azione anche un piano anti-sciacallaggio, polizia, carabinieri e guardia di finanza pattugliano in particolare il centro storico dell'Aquila ed 8 frazioni della provincia. Il capitolo scosse sismiche, da quella distruttiva di domenica notte ce ne sono state altre 350, lo comunica la protezione civile, secondo la quale sono state ultimate anche tutte le tendopoli che ospitano a questo punto 17.000 sfollati, 3.000 sono invece negli alberghi della costa adriatica. E dall'Aquila è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. E Papa Benedetto XVI ha intenzione di recarsi appena possibile in Abruzzo per portare il suo personale conforto alla popolazione colpita dal terremoto. Lo stesso pontefice intende annunciarlo ufficialmente nell'udienza generale di oggi in Vaticano. Altre notizie sul terremoto tra poco, subito dopo questo GR nello speciale. E noi voltiamo pagina, siamo alla politica. Poco fa il governo è stato battuto nell'aula della Camera sul decreto legge sicurezza. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato a scrutinio segreto gli emendamenti della PD e dell'UDC al decreto che sopprimono l'articolo sul testo sull'esecuzione dell'espulsione degli immigrati. Il relatore Caterina Lussana della Lega ha chiesto la sospensione immediata dell'esame del provvedimento. E intanto proprio dal decreto sicurezza l'esecutivo ha accettato di eliminare le norme sulle ronde duramente contestate dall'opposizione. Sentiamo. Marcia indietro del governo sulle ronde. L'esecutivo ha deciso di stralciare la norma dal decreto antistupri in discussione alla Camera per trasferirla in un disegno di legge sempre all'esame di Montecitorio. Per il ministro dell'interno Roberto Maroni si tratta di una decisione sofferta ma inevitabile, perché il decreto antistupri sarebbe decaduto il 24 aprile. L'opposizione canta vittoria e annuncia la fine dell'ostruzionismo in aula. Il decreto contro la violenza sulle donne verrà con ogni probabilità approvato oggi stesso. Quando prevalgono saggezza e ragionevolezza, ha detto il capogruppo alla Camera del Partito Democratico Antonello Soro, non vince nessuno ma vincono tutti. Per il ministro della Difesa Ignazio La Russa il governo non ha fatto nessun passo indietro, mentre l'opposizione ha dato nuova prova della sua intransigenza. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca. A Torino oggi seconda udienza del processo Eternit. In diretta dal Palazzo di Giustizia Marco Ferrando. Sì, buongiorno, buongiorno da Torino. Diciamo che si è chiusa da quasi due ore ormai l'udienza di oggi, la seconda dell'udienza preliminare per il processo Eternit. Sono 200 le persone o rappresentanti di enti locali e associazioni che oggi hanno depositato la richiesta di costituirsi parte civile. Sommate a quelle di lunedì si arriva quindi a 700 richieste e proprio di qui si ripartirà la prossima udienza fissata per il 22 aprile. È stata infatti cancellata l'udienza inizialmente prevista per il 16. Alla prossima udienza, dicevamo, è attesa la pronuncia sull'ammissibilità delle parti civili, quindi si passerà alle eccezioni della difesa. Come avevamo accennato nel collegamento di questa mattina, oggi a Palazzo di Giustizia non si è registrato il ritrovo di centinaia di persone come quello di lunedì, giusto qualche striscione fuori dal palazzo e le parti dentro all'aula, tra l'altro molte rappresentate dagli avvocati. Intanto, uscendo dall'aula, il segretario della Camera del Lavoro di Casale, Nicola Pondrano, un ex della Thyssen, ha rilasciato una dichiarazione in merito agli indennizzi proposti dall'ex proprietario, lo svizzero Schmidaini. Pondrano ha detto che l'offerta riguarderebbe soltanto i casi di asbestosi e non le altre patologie collegate in via indiretta all'amianto, ma di questo si capirà di più alle prossime udienze. Da Torino è tutto, linea allo studio. Staremo a vedere allora, grazie a Marco Ferrando. Apriamo la pagina degli esteri con il Medio Oriente. L'occupazione delle alture del Golan da parte di Israele costituisce uno dei principali ostacoli alla pace in Medio Oriente, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Franco Frattini. Allora, sentiamo da Ugo Tramballi. Ugo, questa occupazione è davvero un ostacolo alla pace? Sicuramente sì, le alture del Golan siriano occupate dagli israeliani sono uno dei due punti fondamentali, uno dei due ostacoli fondamentali per la ricerca della pace in Medio Oriente. L'altro è evidentemente l'altra occupazione israeliana, quella della Cisgiordania palestinese. È augurabile che Frattini dirà queste cose anche direttamente al ministro degli esteri israeliano Lieberman, che verrà per la prima volta in visita ufficiale in Italia all'inizio di maggio. Naturalmente dei due ostacoli principali del processo di pace fra gli israeliani e il mondo arabo, quello del Golan è probabilmente il più semplice da risolvere avendone la volontà, nel senso che si tratterebbe di un accordo diretto fra due stati, mentre al contrario l'accordo con i palestinesi è l'accordo con un popolo palestinese in un territorio estremamente conteso. Riuscire a fare almeno avanzare la pace con la Siria sarebbe un successo tremendo data la situazione e le circostanze attuali nella regione. Grazie a Ugo Tramballi. Parliamo ora della visita di Barack Obama a Baghdad e sentiamo come è stata commentata dai giornali arabi. Barack Obama, nella sua prima visita a Baghdad da capo di Stato, ieri ha prima voluto dire ai soldati USA che è giunta l'ora che gli iracheni si assumano le loro responsabilità per il loro paese. Più tardi, con un evidente sottofondo di urgenza e senza recarsi nella zona verde, ha convocato all'aeroporto i massimi leader di Baghdad per dire loro: superate le vostre divisioni e unitevi a governare il vostro paese. È la lettura che dà oggi sia il New York Times che i principali quotidiani arabi sulla visita. Obama è la responsabilità degli iracheni, titola l'editoriale dei giornali di Stato Al Sabah, che sembra ribadire la presa d'atto degli iracheni della nuova exit strategy di Washington. Adil Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Una nave container danese che opera per un gruppo statunitense con a bordo un equipaggio composto da 21 cittadini americani è stata sequestrata da pirati nelle acque somale a circa 400 chilometri al largo di Mogadiscio. I 21 americani sono in buone condizioni. La nave container, che stazza 17.000 tonnellate, è la sesta imbarcazione sequestrata nelle acque somale da sabato scorso. E siamo all'economia. Dall'inizio della crisi i 27 Stati membri dell'Unione Europea hanno preso misure a favore del settore finanziario pari a 3.000 miliardi di euro, tre volte in più dell'importo deciso dal G20 la settimana scorsa. Lo ha riferito il portavoce dell'esecutivo europeo Jonathan Todd presentando l'ultimo rapporto sugli aiuti di Stato a sostegno delle banche e dell'economia reale. Il portavoce ha anche precisato che la maggior parte di questa cifra è costituita da garanzie. Con il passaggio definitivo dalla TV analogica al digitale terrestre risulterà disponibile un dividendo nazionale di 5 reti che verrà messo a gara con criteri di massima apertura alla concorrenza. Lo ha stabilito l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con una delibera che avvia il percorso per il definitivo spegnimento delle reti analogiche e la conversione delle reti digitali esistenti. E siamo alla cronaca che ci porta nel Milanese. Ha ferito con un coltello la moglie e il figlio e poi si è suicidato. L'uomo di circa 70 anni si è gettato dalla finestra della sua abitazione. Il figlio è affetto da disabilità mentale in gravissime condizioni, mentre la moglie non è in pericolo di vita. È accaduto questa notte a Bresso, nel Milanese. Ora parliamo di scuola perché diventa più chiaro chi potrà accedere e chi no all'esame di maturità. L'appuntamento è per il 25 giugno, giorno della prima prova scritta. Ieri il chiarimento sui criteri di ammissione. Potrà sostenere l'esame chi avrà la media del 6, quindi anche qualche 5, purché questo 5 non sia in condotta. In tal caso niente esame. Ieri a mettere fine ai dubbi l'ordinanza sugli esami di Stato del Ministero della Pubblica Istruzione. E si tratta di una parziale marcia indietro del Governo che in marzo aveva approvato un regolamento secondo cui per fare l'esame non sarebbe stata consentita alcuna insufficienza. Insomma, anche un solo 5 avrebbe portato ad una bocciatura. Prevedibile la valanga di ricorsi che si sarebbe abbattuta a giugno sul Ministero della Gelmini. Non si cambiano infatti le regole a lezioni già avviate. Dunque tutto rimandato al prossimo anno scolastico, quando non ci saranno più scuse. Un'insufficienza a quel punto significherà automaticamente bocciatura. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura siamo al calcio. Si completano questa sera le gare di andata dei quarti di finale di Champions League, senza squadre italiane ma con due sfide di grande interesse. Dario Ricci. Eh sì, Raffaella, hai proprio ragione. Due grandissime sfide, quelle di questa sera, attesi 100.000 spettatori al Camp Nou di Barcellona per il duello che opporrà appunto i catalani al Bayern Monaco, sfida che in qualche modo interessa anche i tifosi italiani, perché in campo con i tedeschi c'è Luca Toni, bomber di quel Bayern che balbetta in campionato, clamoroso il tonfo per 5-1 contro il Wolfsburg nell'ultimo turno, ma che cerca riscatto nella Champions contro il Barcellona, che è il grande favorito e che schiera un attacco atomico. Pensate, Henry Eto'o e Messi insieme finora hanno realizzato 81 gol in tutta la stagione. Grande attesa anche per quello che è il derby inglese tra Liverpool e Chelsea, sfida tra grandi strateghi in panchina. Gus Hiddink sulla panchina del Chelsea, che ha eliminato la Juventus, Rafa Benitez su quella del Liverpool, una sfida che si ripete per l'ennesima volta in Champions League. Pensate, già 4 duelli in 5 stagioni. L'anno scorso in semifinale Liverpool-Chelsea 1-1 e poi ai supplementari il passaggio in finale del Chelsea, poi battuto nella finalissima di Mosca dal Manchester United. Staremo a vedere. Comunque, quel che è certo è che stasera ci sarà grande spettacolo in Champions League. Grazie a Dario Ricci. Alle 13:12 minuti termina questa edizione di GR24. La linea ora va allo speciale sul terremoto in Abruzzo. Da tutti voi un saluto da Raffaella Calandra.